Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Memento. In latino significa letteralmente ricordati. Come è successo per altri termini particolarmente efficaci, l'inglese si è appropriato del latino per esprimere un concetto. In questo caso, un memento in inglese è qualsiasi oggetto che può servire per ricordarsi qualcosa. Allora, dove sei? Sei in una stanza d'albergo. Ti sei svegliato e sei in una stanza d'albergo, ecco la chiave. Per te è come se fosse la prima volta che sei qui, ma invece potresti essere qui da una settimana o da 3 mesi. Difficile dirlo. No, non lo so. È solo una stanza qualunque. Siamo nel 2000, quando Memento esce al cinema, firmato dal regista Christopher Nolan. Se il titolo è perfetto per raccontare la trama, il sottotitolo lo è ancora di più. Ricordati di non dimenticare. La storia è questa. Leonard Shelby, in seguito a un incidente, è diventato affetto da un disturbo della memoria a breve termine. Non riesce a ricordare nulla di quello che gli succede. Non i grandi avvenimenti, non i piccoli episodi quotidiani, non ricorda nomi, volti, strade, non ricorda niente. Leonard Shelby ha una missione: vendicare sua moglie. Per sopravvivere si è inventato un metodo molto pratico. Scrive ovunque appunti per ricordarsi tutto ciò che lo riguarda. Fogli lasciati in giro, polaroid con dei ritratti, ma anche tatuaggi sulla pelle che gli indicano cosa è successo e cosa dovrà fare. Devo credere in un mondo fuori dalla mia mente. Devo convincermi che le mie azioni hanno ancora un senso, anche se non riesco a ricordarle. Devo convincermi che quando chiudo gli occhi, il mondo continua a esserci. Allora, sono convinto o no che il mondo continua a esserci? C'è ancora? Sì. Tutti abbiamo bisogno di ricordi che ci rammentino chi siamo. Io non sono diverso. Leonard Shelby non sarebbe riuscito a sopravvivere senza una piccola grande invenzione che aiuta anche tutti noi. Un'invenzione che ormai da 40 anni è nelle nostre case ed è diventata il più prezioso alleato dell'organizzazione quotidiana. In un mondo che va avanti a ritmi vorticosi, dove chi si ferma sembra perduto e non c'è tempo per sbagliare neanche una mossa, di questo oggetto di colore giallo brillante non potremmo proprio più fare a meno. Ce l'abbiamo in ufficio, attaccato al monitor del computer, l'abbiamo appeso al frigorifero per ricordarci cosa comprare al supermercato, lo usiamo per scarabocchiare mentre stiamo al telefono. Stiamo parlando del Post-it, il foglietto quadrato che è diventato un'icona. E oggi, a Destini Incrociati, vogliamo raccontare la storia di questa invenzione. Il primo prototipo di Post-it è disponibile nel 1977. Nel biennio 80-81, dopo una poderosa campagna pubblicitaria, l'oggetto viene venduto in tutto il mondo. Nel 2004, il Post-it, il foglietto che si attacca e si stacca, è stato inserito tra le opere esposte nella mostra del MoMA Humble Masterpieces, semplici capolavori. Un semplice capolavoro. È così che viene definito il Post-it dopo anni di successo sul mercato. Ma questo oggetto ha davvero sempre avuto la fortuna che tutti immaginiamo? Com'è nata l'idea e da chi è nata? E quanto conta il destino nell'avventura del giallino quadrato? Forse non l'avreste mai detto, ma tutto comincia in una chiesa. 1974, alla North Presbyterian Church di North St. Paul, è una domenica mattina qualunque, e i credenti della città si stanno preparando per assistere alla messa. Come tutte le settimane, le persone sono più o meno le stesse, tanto che i posti sono praticamente assegnati con un tacito accordo. In prima fila il sindaco con la famiglia, poco dietro qualche funzionario, poi un paio di membri delle forze dell'ordine con moglie e figli. Nelle panche più indietro c'è ancora qualche posto libero per chi arriva all'ultimo momento, mentre il coro invece è già posizionato in piedi a fianco dell'altare. Tra i cantanti che stanno scaldando le ugole c'è un uomo dall'aria simpatica, dimostra una quarantina d'anni anche se già sulla sua testa i capelli si stanno diradando. Sono abituato a vedermi con i capelli sui lati della testa. Ormai è una vita che li porto così. Li ho persi abbastanza presto e, altrettanto presto sono diventati tutti bianchi. Saluta tutti questo signore, rivelando di essere un membro attivo della comunità. Fedele e praticante, non salta mai una messa la domenica, che ci sia il sole, che piova o che nevichi. Ha la sua casetta indipendente con il giardino davanti e il vialetto per non calpestare l'erba, un garage spazioso dove mettere automobili e attrezzi per il bricolage, e una famiglia, cane incluso, che lo accoglie quando torna a casa dal lavoro. Insomma, quello che si dice una vita tranquilla. Il suo nome completo è Arthur, ma lo chiamano tutti Art Fry. Art Fry. Sì, ero sereno. Avevo il mio lavoro, la mia famiglia, i miei hobby. No, non mi mancava niente. Mi sentivo molto fortunato ad avere quello che avevo. E pensavo spesso ai miei ricordi d'infanzia, quando ero piccolo e non avevamo niente. 19 agosto 1931, Owatonna, Minnesota. In quella che viene chiamata la terra dei 10.000 laghi, ce ne sono in realtà quasi 12.000. E pescare e nuotare sono le attività che tutti gli abitanti qui imparano fin da bambini. Tutti, incluso il piccolo Art Fry, che non ha molto altro da fare. Nella sua famiglia i soldi sono pochi, e i suoi unici giochi sono vicino o dentro l'acqua, visto che c'è anche un fiume, lo Straight River, il fiume dritto. Lo mandano spesso a prendere la legna per il camino. Lui esce da scuola, quella scuola formata da un'unica classe che frequentano tutti dai 5 ai 10 anni, e va nei boschi. Non torna mai subito a casa perché gli piace improvvisarsi costruttore e mettere insieme i pezzi di legno che trova in giro per fare delle slitte. Ma io sono convinto che la mia passione per l'ingegneria sia nata nei miei boschi, quando cercavo i pezzi giusti e con attrezzi più o meno improvvisati cercavo di costruirmi dei giochi che funzionassero senza rompersi. Non avevamo niente, e quando non hai niente, ti devi per forza ingegnare. Inventare oggetti e sentire storie inventate. Sono queste le più grandi passioni del piccolo Art, come la storia che si fa continuamente raccontare, quella sull'origine del nome Owatonna. La principessa era molto fragile e suo padre, Capo Wabena, aveva sentito parlare di certe acque miracolose che nascevano da sorgenti naturali. Così si era trasferito in quella che adesso è Owatonna, con tutta la sua tribù. La principessa Owatonna aveva bevuto delle sorgenti tutti i giorni ed aveva recuperato la salute. È una leggenda, però l'acqua per noi è sempre stato un elemento molto importante. Quando ce la metti davvero tutta, puoi andare verso il tuo destino e fare in modo che si incroci con la tua volontà. Art Fry ci crede moltissimo e fin da quando è un ragazzino mette anima e corpo nello studio, consapevole che dalla vita vuole una cosa sola, fare lo scienziato. Dopo il liceo va all'università e macina un esame dietro l'altro senza prendere un solo voto che può rischiare di abbassargli la media. Le aziende e risorse umane come queste raramente se le lasciano scappare. Succede così che mentre è ancora uno studente, Fry viene presentato da un amico al capo della 3M. Risultato? Un colloquio, un altro colloquio e un'assunzione immediata prima ancora della laurea. Ah, facile non lo è stato, non posso negarlo. Andavo a lavorare di giorno e studiavo la sera. Però è stata una di quelle esperienze che ti temprano, che ti insegnano a fare più cose contemporaneamente, a portarle avanti tutte con lo stesso entusiasmo. Mi sarebbe servito qualche anno dopo, quando di giorno lavoravo e di notte nei weekend perfezionavo la mia idea. Nato per caso, oggi il Post-it è un grande successo e viene venduto in più di 100 paesi. Attualmente sul mercato esistono oltre 600 prodotti che orbitano intorno alla famiglia Post-it. La prima volta che Art Fry mette piede alla 3M, l'azienda dove l'hanno appena assunto, è impressionato. Corridoi lunghissimi completamente a vetri, spazi aperti per scambiarsi le idee e le suggestioni, gente che si ferma a chiacchierare qua e là. In poche parole, a lui, nato e cresciuto in una realtà dove il lavoro è duro e sinonimo di sacrificio, sembra che qui non lavori nessuno. Avevo quest'idea del lavoro come sangue e sudore, perché era quello che avevo sempre visto. E invece alla 3M vedevo le persone rilassate, serene. Solo col tempo ho capito che si può lavorare e farsi venire in mente qualcosa di buono anche mentre si beve un caffè. La 3M è un'azienda storica. 3M sta per Minnesota Mining and Manufacturing Company ed è stata fondata nel 1902 nel Minnesota sulle rive del Lago Superiore per iniziativa di 5 uomini d'affari che avevano deciso di scavare depositi minerali di corindone per realizzare abrasivi per mole. All'inizio però le cose non sembravano andare per il verso giusto e così gli avventurosi imprenditori si erano rimboccati le maniche e avevano ricominciato da capo. Stavolta con la carta vetrata, facendo prendere alla loro impresa tutta un'altra piega. La 3M inventa la prima carta vetrata impermeabile al mondo, che assicura una riduzione delle polveri trasportate dall'aria nei processi di lavorazione dell'industria automobilistica, sviluppata all'inizio degli anni 20. Inventa negli anni 30 il nastro Scotch, inizialmente per sigillare i pacchi. Inventa ancora numerosi nuovi prodotti elettromeccanici, prodotti per la fotografia, la carta senza carbone, le lavagne luminose. I ricercatori sono sempre stati la più grande fortuna della 3M. Ed è per questo che quando ne trovano uno in gamba non se lo lasciano scappare, no. Lo assumono, lo lasciano libero di progettare e inventare e poi ascoltano quello che propone. Proprio quello che è successo ad Art Fry e quello che succederà molto presto a un altro suo collega. Occhiali con la montatura sottile, sorriso sempre stampato sulle labbra e camicia a quadretti fitti. Il suo nome è Spencer Silver. Spencer Silver. Sapevo che lì dentro, in azienda, avrei potuto incontrare persone interessanti. In quel periodo non conoscevo ancora Spencer. Lui ha 10 anni meno di me ed è entrato in azienda dopo. Il destino, però, ci ha riservato un bel percorso da condividere. Art Fry ha 10 anni quando a centinaia di chilometri di distanza, ma sempre all'interno dello sconfinato territorio degli Stati Uniti, viene alla luce Spencer Silver. Siamo nel 1941, a Sant'Antonio, Texas. Una terra così decisa che o la ami o la odi. Una terra dura, fatta di grandi spazi e cowboy, cavalli e lavoratori. Una terra che John Steinbeck ha definito con queste parole. Il Texas è uno stato d'animo, il Texas è un'ossessione, ma soprattutto il Texas è una nazione in ogni senso della parola. Spencer Silver non si trova troppo a suo agio tra le ostentazioni di mascolinità che in questi luoghi sono il metro di giudizio per gli uomini. No. Lui è un timido, sta in disparte, preferisce leggere e non dare troppo nell'occhio. È impossibile rintracciare un episodio particolare che racconti il leggero bullismo nei suoi confronti. Ha pochi amici. E la maggior parte dei suoi coetanei lo considera un diverso. Mi hanno spesso preso in giro a scuola perché ero il classico secchione. In un posto come il Texas, dove o sei prestante o non vali niente, io ero quello che non valeva niente. Mi piaceva studiare, soprattutto scienze e chimica. Facevo spesso esperimenti in casa e mia madre si arrabbiava moltissimo. Era una precisina. Voleva sempre tutto perfettamente pulito e io lasciavo un gran disordine in giro. Spencer Silver, Silver come argento, un nome che sa di profezia, arrivare sempre secondo quando qualcun altro si prende l'oro. Sarà questo il suo destino? Non può certo immaginarlo e assecondando la sua grande passione si iscrive all'università, facoltà di chimica all'Università dell'Arizona, dove si laurea nel 62. Segue dottorato in chimica organica all'Università del Colorado. Insomma, è un piccolo genio. Non ho mai fatto fatica a studiare. Lo sapevo fin da piccolo che era quella la mia strada. Non di certo diventare un palestrato, non di certo uno di quei ragazzi da rodeo che le mie compagne di scuola guardavano con gli occhi sognanti. No, io ero un'altra cosa. Già, Silver è un'altra cosa. È un ragazzo posato, serio e responsabile. Il bravo ragazzo che le mamme sperano di avere come genero è una persona su cui le aziende contano. Siamo a metà degli anni 60 quando lo assumono alla 3M. Il suo collega Art Fry lavora già lì da una decina d'anni e il loro rapporto si limita a un saluto cordiale nei corridoi. Ma le strade del destino spesso portano lontano prima di arrivare a destinazione. Chi l'avrebbe detto? Due colleghi che a malapena si salutavano per educazione. E invece io senza di lui non sarei quello che sono. E di certo vale il contrario. Ce lo siamo detti 1000 volte. She was born in November 1963, the day Aldous Huxley died. And her mama believed that every man could be free, so her mama got high. Destini incrociati. A Destini incrociati siamo all'inizio degli anni 60 e stiamo raccontando un incontro che ha dato vita a un'invenzione insostituibile, il Post-it. I protagonisti di questa incredibile avventura sono due americani e si chiamano Art Fry e Spencer Silver. Fry è nato e cresciuto in Minnesota, tra i racconti di antiche leggende da ascoltare davanti al camino, l'acqua del fiume e la legna dei boschi. Si è laureato, ma mentre ancora stava studiando già lavorava alla 3M. Anche Silver, 10 anni di meno di Fry, originario del Texas, lavora nella stessa azienda. Si tratta di un'azienda americana che ha sempre puntato sull'innovazione e sulla ricerca e che ha messo a punto nel tempo alcune piccole grandi soluzioni, alcune che senza averci mai fatto caso fanno parte delle nostre giornate. Un esempio su tutti? Lo Scotch. Silver, cognome profetico da Eterno Secondo, ha una gran voglia di lasciare il segno. Quanto avrei voluto inventare qualcosa anch'io, diventare famoso, essere riconosciuto in mensa. Insomma, trovare anch'io una piccola invenzione geniale. Silver non è uno che ama attirare l'attenzione, o almeno non è mai stato così. Ma da quando fa ricerca, lo scopo della sua vita è diventato entrare nella storia. Nella storia della sua azienda, almeno. Non volevo mica diventare famoso, ci mancherebbe. È difficile che uno scienziato diventi famoso, e io mi consideravo uno scienziato. Però volevo lasciare una traccia del mio passaggio, dimostrare a me stesso e ai miei colleghi che non ero lì per caso, che potevo servire a qualcosa. Voglia di affermarsi o semplice insicurezza, fatto sta che Silver lavora alle applicazioni commerciali degli adesivi, mettendoci anima e corpo. Non esce quasi mai dal laboratorio e riesce a mettere a punto una colla che non solo è in grado di aderire a ogni superficie, ma che può anche essere staccata e poi riattaccata. Leggera e resistente come mai nessuna colla è stata prima. Già, e forse se non c'è mai stata è perché nessuno se ne fa niente di una colla che non attacca davvero. Continuavo ad arrovellarmi. Un giorno mi sembrava di aver fatto un gran lavoro ad inventare una colla semipotente e l'altro giorno mi chiedevo a cosa potesse servire. In ogni caso, sentivo che da quella cosa poteva nascere qualcosa di buono, prima o poi. Silver cerca a lungo di convincere i colleghi della bontà della sua invenzione. Ma com'è possibile, visto che lui stesso ne intuisce le potenzialità, ma ancora non ci crede fino in fondo? Siamo nel 1968 e per 5 lunghi anni cerca di promuovere la sua idea all'interno della 3M, sia in modo informale, per i corridoi e in mensa, sia in maniera più ufficiale, organizzando dei seminari per spiegare quello che ha inventato. È proprio a uno di questi seminari che un giorno si presenta il suo collega Art Fry e il destino fa capolino dietro l'angolo. Uno dei pochi che mi facevano domande era Arthur. È stato uno dei pochi che ha cercato di capire davvero quelli che potevano essere gli usi della mia colla a bassa pressione. Il Post-it classico è un quadrato giallo e misura 7,6 cm per lato. Oggi si può trovare in 8 misure, 25 forme e 62 colori. Cuori, matite, baci, forme tonde, a ognuno il suo Post-it. Art Fry va al seminario che tiene il suo collega Spencer Silver. Fa diverse domande su questa colla a bassa tenuta che il collega ha inventato. Torna a casa, ne parla con la moglie e poi se ne dimentica. Se ne dimentica anche lo stesso Silver, che al lavoro sposta la sua attenzione su altri fronti e nella vita privata si dedica alla pittura a olio. Poi, un giorno, la svolta. Non ci credevo più nemmeno io. Ci ho provato in tutti i modi. E alla fine mi sono convinto che avevano ragione loro. La mia invenzione non serviva a niente. Siamo nel 1974. Spencer Silver, dopo aver tentato per anni di convincere i suoi colleghi della 3M, ha ormai messo nel cassetto la sua idea che nessuno ha capito. Art Fry, pur incuriosito al seminario del collega, ha fatto altrettanto e continua la sua vita di sempre, tutta casa e chiesa. Eh già, la chiesa. Ritorniamo al momento in cui Art, poco prima che inizi la messa domenicale, si accinge a cantare nel coro della sua North Presbyterian Church di North St. Paul. Adoro cantare nel coro della mia chiesa. Lo faccio da molti anni ormai. È proprio una passione. Quando sono a casa faccio le prove e poi facciamo la prova il sabato pomeriggio, soprattutto se dobbiamo imparare nuovi canti. E ogni tanto qualcuno lascia e arriva qualcuno di nuovo. Ma noi, quelli della vecchia guardia, siamo sempre i soliti. È un po' come stare in una grande famiglia, oltre a quella che ti aspetta a casa. Fry ha un piccolo ma fastidioso problema. Nulla di paragonabile a quelli veri, per carità, ma a lui che è tanto pignolo che appena sente un rumorino nella macchina la porta dal meccanico e scoccia parecchio. Il fatto è questo: quando è nel coro, deve stare dietro ai canti da seguire. E per ritrovarli in un attimo, infila sempre nel libro della messa alcuni foglietti di carta a mo' di segno. Lo fanno anche gli altri, ma a lui chissà perché i foglietti cadono sempre. E questo mette a dura prova la sua religiosa pazienza. Non riuscivo mai a cantare un canto fin dall'inizio. Non ho mai capito come facessero gli altri. Forse io sono un po' lento, può essere, però, insomma, gli altri cominciavano e io ero sempre lì a cercare la pagina giusta. Finché il coro lo copre, nessun problema. Ma un giorno, durante un matrimonio, Art Fry è incaricato di intonare l'inizio di un brano da solo. Tutti gli occhi sono puntati su di lui e lui non trova la pagina giusta. La chiesa è nel silenzio assoluto. Gli sposi dopo qualche secondo cominciano a guardarsi imbarazzati e quando finalmente Fry parte si sente un sospiro di sollievo da parte del prete. Un imbarazzo totale. Cercavo quella benedetta pagina. Ci avevo anche messo un segnalibro ma mi era caduto ed era impossibile ritrovarlo. Un adesivo che resta attaccato quanto basta, ma che si può staccare senza rovinare il foglio su cui è attaccato. Questo cerca Art Fry per il suo libretto dei canti. E di questo, senza che ancora lo sappia, ha bisogno l'umanità. Evidentemente qualcuno l'invenzione sbagliata di Spencer Silver se la ricorda e come. Non so se a causa di un sermone noioso o di un'ispirazione divina, ma quel giorno pensai a come risolvere questo inconveniente. Ed improvviso mi venne l'idea di un adesivo. Non di un adesivo qualunque, di uno che era stato ideato e provato da un mio collega alla 3M, Spencer Silver, ma che era poi stato scartato perché aveva il difetto di perdere la propria capacità adesiva dopo poco tempo. Il lunedì dopo la messa, Art Fry si presenta puntuale come al solito negli uffici della 3M. Non saluta nessuno, punta dritto alla scrivania di Spencer Silver. Fry gli chiede che fine abbia fatto quel suo adesivo che non incollava abbastanza, inventato anni prima e poi scartato. Il problema di un uomo può essere la soluzione per un altro. Silver naturalmente ha ancora tutto il materiale che ha raccolto nel tempo e glielo passa. Art Fry comincia a lavorare giorno e notte per un anno e mezzo e mette a punto l'invenzione. Deve insistere molto con i capi della 3M, ma alla fine acconsentono, sicuramente più per sfinimento che per reale convinzione, a fare un test di mercato. Incredibile. Finalmente la mia invenzione stava trovando uno scopo. L'idea è venuta a me, ma senza Art Fry il post-it non avrebbe mai visto la luce. Sono necessari circa 506.880.000 post-it per circumnavigare il globo. Destini incrociati. A Destini incrociati siamo nel 1974 e alla 3M, l'azienda che ha già inventato lo scotch, sta per nascere il post-it. I protagonisti di questa avventura che ha dell'incredibile sono due uomini il cui incontro ha determinato un cambio di destino per loro, ma anche per il mondo. Si chiamano Art Fry e Spencer Silver. Non avrei mai pensato di entrare nella storia. E invece, grazie a un foglietto giallo, io e Art ce l'abbiamo fatta. Silver inventa nel 68 una colla che attacca, ma si stacca anche con la stessa facilità. Insomma, incolla, ma non abbastanza. E i capi gli dicono chiaramente che non sanno cosa farsene. Prova a convincerle in tutti i modi, ma niente da fare, finché un giorno il suo collega Art Fry, che canta nel coro della chiesa, perde il segno proprio mentre tutti aspettano che inizi a cantare. Il segnalibro è caduto e comincia a pensare che ci vorrebbe un segnalibro staccabile e spostabile, ma che non venga via. L'idea di Spencer gli torna in mente subito, perché è la soluzione perfetta. Si chiama, come dire, serendipity questa illuminazione. Che cosa significa? Beh, serendipity vuol dire imbattersi in qualcosa senza averlo cercato, oppure trovare qualcosa mentre si sta cercando qualcos'altro. Un po' come Cristoforo Colombo quando scoprì improvvisamente l'America, ma mentre stava cercando l'India. Ecco, la stessa serendipity ha guidato Art Fry. Stava cercando un segnalibro staccabile e invece si è inventato il post-it. Narra un'antica favola persiana di tre principi di Serendipo, l'attuale Sri Lanka. Uomini intelligenti ma un tantino ingenui, che cercarono invano una certa principessa. Non la trovarono mai, ma lungo la strada, per caso, per sagacia o per associazioni di idee, trovarono invece molti altri tesori, piante, animali, pietre preziose e curiose invenzioni. La serendipity è quando un contesto favorevole incontra la fortuna. Art Fry lavora per un anno e mezzo incessantemente, giorno e notte, mette a punto la colla di Spencer, poi chiede di testarla sul mercato. Il campione di colla adesiva che incolla ma si stacca viene applicato a foglietti quadrati di colore giallo e commercializzato in 4 città degli Stati Uniti con il nome di Post-it, attaccalo. I risultati sono a dir poco schizofrenici. In 2 città non si vende neanche un giallino, nelle altre 2 il Post-it va letteralmente a ruba. C'entra ancora una volta il caso, farcito da una buona dose di marketing. Nelle 2 città fortunate il prodotto viene distribuito gratuitamente dai commercianti e i clienti incuriositi lo prendono pensando perché no, tanto è gratis. Nelle 2 città disfatte invece il post-it viene messo in vendita senza alcuna campagna pubblicitaria e i clienti alla proposta convinta del negoziante rispondono con un deciso no grazie, perché spendere dei soldi per un foglietto che sembra non servire a niente? Avevo deciso di tenere duro. I miei giallini avrebbero avuto fortuna, ne ero certo. L'artista Melinda Spier-Girard ha utilizzato 60.000 post-it per i pannelli che espone nelle gallerie d'arte in tutto il mondo. Il tempo dà ragione ad Art Fry. Nel 1980 i post-it cominciano ad essere venduti in tutti gli Stati Uniti e l'anno seguente approdano anche in Europa e nel resto del mondo, diventando uno strumento indispensabile per organizzarsi il lavoro e la vita. Post-it è il nome di una band e i post-it sono protagonisti al cinema, per esempio in Memento, in cui il protagonista li usa per ricordarsi tutto. Ricordare, un obiettivo che grazie ai post-it diventa molto più facile. Al piccolo foglio che attacca un po' ma non troppo si deve la tranquillità di impiegati, casalinghe, studenti, ma non solo. Nasce un modo nuovo di fare le liste delle cose da fare, essenziali, in una società che corre. E oggi Post-it è anche virtuale. A Minneapolis è stato trovato un Post-it sulla parte anteriore di un aereo. Il volo arrivava da Las Vegas e la nota era destinata al personale di terra. Il foglietto aveva resistito a un viaggio a 500 miglia orarie e 56 gradi sotto zero. Altro che il libro dei cori di Fry. Già, Fry, ma che fine ha fatto? Ho ricevuto diversi premi per il mio ruolo rivoluzionario nelle comunicazioni d'ufficio. Wow! Non avevo neanche il vestito giusto per andarli a ritirare. Ne ho comprato uno e ho messo sempre quello. Mi hanno ammesso la prestigiosa Carlton Society, al circolo 3M della Technical Excellence. Ma la cosa più sorprendente è stata quando la rivista Esquire mi ha inserito tra le 100 persone migliori del mondo. Evidentemente i post-it sono serviti molto a quella redazione. Anche Silver ha coronato il suo piccolo sogno di gloria. Si è ritirato dal lavoro alla 3M nel 96, dopo 30 anni di onorato servizio e ben 22 brevetti a suo nome. Ad Art Fry e Spencer Silver dobbiamo moltissimo, non soltanto perché con la loro idea nata per caso ci hanno semplificato la vita, ma anche perché ci hanno insegnato che con metodo e intuito, scientificità e caso si può fare qualsiasi cosa. Soprattutto ci hanno dimostrato che un incontro del destino può cambiare il mondo. Per non dimenticarlo, prendetevi un post-it. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.